posso sapere oggi che te l'ho mai visto. Già ho visto la bandierina rubia appresso cammina in natura, una casa si accelerava e corria, dice papà, ligare e prendi. Se mi no, ma era la ditta le mattina che faceva, là. Dopo parlare le mattina, un poco, da di essermi il corso dell'antenna, aveva terminato la posta di guida. No, ci siamo bene in tua casa, ragazzi, tranquillo e pacifico. Ma domani cominciamo a fare bella lì, eventualmente faremo in campagna domani, la ottava, e sempre ci fa vedere se non siamo in casa. Domani dovrebbe fare sole e nuvoloso, sempre seguendo le previsioni come sta fatto vedere. Oggi ha fatto vedere nuvoloso e un po' di acqua, tanto da zinco prendeva. Ehi, mo direi via, non era per le voci, dai. Comunque, anche lui che è barriato voce, ma era giù, perché era la pelle tronenti, Se anche lui ha fatto voce, ha fatto. Io come fa? Era... faceva battere le macchine oggi, cazzo, da mangiare un pizzo oggi sono me, corrente che... No, ieri ho visto un pezzo, io a Biovenni, chi tu sei uscito fuori strada, non l'hai visto, un pezzettino me l'ho visto. E la attesa, la mia, la mamma di sfilata a me, che me la veniva a mare luci, e mi diceva, stavano in sfilata, di sfilata, dopo il gruppo, di stava sempre a Baidelli. E poi ho detto, vediamo un po', la parecchia la si è partita, è stato Mario Massa, la grazie a lui. Mario non ha inteso mai niente, dice che è entrato, ha buzzecito e non si è inteso più, e non ha inteso più da nessun altro. Ci sono tutti impegnati, da famare, non so già mai niente, e non fa vedere nessuno, lo farà chi oggi. Saranno imbriati da rimanere a tutti quanti, ma Mario sarà appena ligare le biciclette, sarà appena tutto lo giro della casigna. Che vedi butti la parola del gruppo di Bacca, no? Subito la bicchia per la camata la sorpresa, perché si amava la... Barbe, come si chiama, che si manna, capito? E 40 centimetri, sai che... Allora la manno rubo, se 40 centimetri la bocchia è manno rubo. Poi a noi ho preso un bel mazzo di fiori, tutto decorato, bella fatta la confezione per il compleanno, mia figliola ha fatto una pattura d'uscia, mia zia l'ha regalato di là, per lui, così, e per essere 40 centimetri la bubbia l'uomo era grande. Comunque, auguri a Rusi per il compleanno, che andare. Dopo le due hai fatto, che la rubiria, invece tu hai pigliato, l'hai pigliata, ti ne vado da fuori, che ne sarà, ti siamo portati a pranzo, tutti e due, sorrisoni, e state tranquillo, non andava bene così. Grazie Gio Marì, grazie. Ha giudito Veccia dopo, dopo di vent'anni Veccia. Non ti dici più Veccia, non siamo Vecci, no. Ancora siamo giovani, oia. Che aspetta. Ancora non la potremmo desiagito, sicché non siamo Vecci ancora. Sempre da bocciando a pranzo a qualche ristorante, proprio sorrisoni, e invece gatta, ora un gioco, ma tre fiori, ma le fiori si saccare subito. Gio Marì, non ci sono più fiori, a sera ce l'ha mandati Gio Marì, ormai tu maledizione c'è sempre il resto che palla. Qualcuno quando si sta travagliando a Rugiria, certo, me che no. Mi raccomando, se la braccia a me. Vai tu, figlia, tasca la tratti la zecchi e ti tratta male, la tratti male, non la zecchi, ti tratta male, vuoi entrare per bigliare? Non potevo bigliarla, grazia, non potevo bigliarla, ma ti manno, ma proprio la pizzina. E così è grazia, preghiamo della salute, da voi fa un riso, a parte, in famiglia, da voi un riso andrà tutto bene. Chiaro questo, ma ma noi in tenda la lavoriamo più caro. Allora è stato meno un po' di ma ha detto si parlava in campagna, ha detto tu sei Marco, vai vai giù. E certo, la cosa mi si parla in campagna a camminare letto. Ah no, e dice io scendo e scendi, vai vai. E vabbè, si chiede. C'è di compagnia magari campagna esatto la vita tra il tuo caso sei no che tra il tuo caso sei che danni e forse e c'ha di bagnere che forse che no che magari a chi e mi dà pure la lavona per cui in compagnia si può stare certo se lo grido io mi è stata la casa in campagna mi si era parlata da campagna e stato un bibè di no. Oh, è un caso, non mangi in campagna per cui uno va a casa che va tutta la cosa a dritto e ti ha fatto il discorso grazie però non tutti la pensano come te beh, per cui ognuno va il piatto di suo capito grazie noi si domani spazio di patatini si faremo a campagna tu sparata e sonchina rientra in cioè, oggi dove c'è dentro adesso non so se a Manzano oppure a Sira così che domani senz'altro la campagnata faremo in campagna e da parte ci sta di avere a chi è tutto per tutto per cui non manca niente e in compagnia si sta dentro fuverta voi sempre si fa di patatini no se sei in casa e ciao buonanotte. Ma non è solo il fatto, no? Anche se c'è la casa di mare, c'è umidità, e l'umidità è la paletta dei vasi mari, da bella non è abituata, si può guida rimane tra la tua casa, che si fa di stare già preventi, dunque si fa, insomma, buon caffè e ne bello malanno da voi, a te poi ne burrera, tutto infuso, come se c'è la casa per dire accendi il camminetto. Cazzo, a me non mi piace rimanere trento così, cazzo, non mi sono abituato, sì, adesso mi canto devo mangiare, o se mi sono mettendo un programma al televisore, ma no, tocco, entra, esce, non mi tocco il rento. E così è detta, come cazzo a pizzarsi di fiori, chiedo, che dazzo, è inutile, allora non ci sento per quello, che? E quando fa di tempo così è chiaro non conviene manco buono che quando noi faremo in campagna e dritto non vi tocco e non mi piace ma cacciare sempre i vivi tocco sempre fermi a bassa lastra magari altri mi bocio se comunque a voi torna a no, ma che vi tocco che non fa niente comunque chi c'è di cucini già si ha di vedere il tuo caso va. E qui noi non andiamo a lupo. Beh, ora migliore il travagliente oggi. Ho bisogno la famiglia per cui siamo tutti tre a casa, per cui passiamo la riunione a te. Per cui, devo saluti e appetito, grazie a voi, la bacca che si bastano a te. Allora, poi esce un casino di cui si è giunti la casa, che vi cagate, chi sta preparando, i piccini brinchettendo, stereo acceso, televisore acceso, ti rimane a nero, gabbè, tanto vale me ne so più in casa, no. Io ormai, ormai sono già non disembito, per cui tu... funzionante a perfezione per cui a che dura abbiamo a fare insieme e mangiamo e cosa vuoi fare? A chi la dì veramente fea c'è un po' di umiltà infatti ma no, c'è mia casa e casa è tranquillo sta che maniera, si è messo là, che pigliamo di cocchetto, e dice che, e già c'è proprio la stessa, capito? Potini, che domani si fa di pupetta, ma non è sì, ma oggi si salta dentro casa e siamo tranquilli. Quando fate i libretti più in davanti, quando sono i libretti a farlo, però allora io non ci scendo, cosa farà a fare? Fanno i figli a malanno, a vita asmatica, come te, no, no, no, manco per l'idea, a me non mi era buttito, ma io per lì non ce la porto, così, a chi sta per il gioco, a chi l'ha giocato a figlio che ne ha pigliato un malanno, no, manco per idea, ui. Ehi, devo fare a dare malattia, perché a dare malattia devo fare di così. Se mi trovo a campare il torre, io ti avevo fatto un po' di sviluccio, cazzo, un po' di zea, cazzo, aveva un po' di sviluccio a sera, io cazzo. Ho fatto due buchi manni, cazzo, aveva mia, sempre 3 incendi, cazzo, aveva 3 incendi e poi di freezer, cazzo. Tu sei uscito già il buono, cazzo, di Romagna, cazzo. Quello con lui si piace, beh. Dove buttavo faccio Fiducci? Ma sai che non dove finirà? Non ci metto Fiducci mai come te che sanno. E su, madonna che... Però la parte si che fai, non lo faccio, si può la dosse di più. Vabbè, in campagna era minore, anche io ne aveva fatto, ma già ce n'è, sta anche crescendo, già venne crescendo. 6 anni sarà tornato da sci, adesso quando è successo? 2 che di va, a mangiare un cane, però non ci sono entrato perché era bagnato, tutto fango, anche abbagnato da nata rubiassale, no? E usa, ma adesso quando fa le belle giornate che scendo a tagliare l'erba, prima di tagliarla mi posso un po' di poco, poi uno faccio bisogno, ma ciò non li taglio, visti, compri, li lascio, questo prima pure la via, prima di curarsi, se no, lui non c'è il romante, li lago, e poi quando vado questi sacolani, prima mi riposo, compris, e poi la taglio e poi la torna sci. Però adesso non scendo, c'è troppa umidità, no, non fa. Sì, a tempo di affare. E a tempo vuole? A tempo, a le mani non la viene, se mi fa l'altro, mi sa di mezz'ora l'erba perché era asciutta le mani, se no non mi sarei stato macchino. È stato fresco, lo me ne dai, no. E per cui alle mani ci puoi fare, l'ho fatto per perdere un bel poco. E sta tutto drenciato e poi in freezer. Vabbè, io non mi lascio, mi è poco di gas. E poi pare ci mangiare un buono vino sceso, per cui andò vabbè. C'è un poco, fa così, andò con l'uovo, così, un reccio è tutto drenciato, andò di sceso un poco, e la si rampa in mezzo, e tutto andava bene. Cosa puoi fare, grazie? Così è. La via è palorda veramente, quindi, che fate immaginate che c'è in una buona casa, allora non è stato bene, ci abbiamo fatto una bella lì, un bel diente, era uscito da fuori, invece no, se piace il forza, lì già in mano. Ma dove si mantiene? Io qui sono tutti di macchina, non la faccio, non avevo un cane in carrera, sono tutti di ventolo in gas. Io ci sarei fatto la spesa di male, e poi domani se ci fa la platamona, la bilancia sarà stracolma, sempre se non più, così magari faticasse il goccetto aveva, e a me è capitato pure a me, siamo rimasti la bilancia passata. Però domani se ci fa la platamona, è pieno. E a secondo 2 anni che non fa la platamona, che non me la metto più manco come te, va. Ma un bel danno mio, un bel. Se me la gente le mani mi figliolo, così so fare quel bisogno a giocare. E così, pensa se avevi fatto pure la binetta lì da Bratamona a Santo Paese, la pista ciclabile, ieri. Dice, avevi fatto pure, se è bellissimo, se uno anda, ieri si fa la passeggiata, veramente all'inizio di parare. io faccio il sabbista fare di ciclabile, che è? Se voi immaginate, ma sei veramente peggio, da poi tanti anni che la racconto, però ma... La palai lì è bello, arrivato tutti i marciapiedi, le murette, con le luci, infatti la poco è nata al giornale, a chi è arrivata alle visioni, le luci incrassate nei muretti fatte a secco, la di pietra, di sabbietra giatta. E le palle erano tagliate tutti quanti i lampadini lungo la ciclabile che c'è, cioè il marciapiede e la pista ciclabile. Era nato il giornale da poco, no, lì l'hanno già, è bello, l'ha arrivato la strada, è asfaltata, proprio oggi a Palermo era tutto qui di Rocchi, dove c'è la chiesetta prima e anche dove c'è la chiesetta quella di giù, proprio quella di Balai. E c'era bello, però tu si andi dalla torretta a tutta la costa verso il sorso, presentimi hai la discarica di Ucilo, così è Givi a Platamona. Bobo, certo, non l'hanno mai pulito, che pensa sempre in bruttezza Givi, ma questo dipende tutta noi, che siamo noi zoffi, si vede noi che andiamo in pinnetta e ci possiamo, ci puniamo a mangiare la mondetta, poi la buccia, la bandiera, il contenitore apposta, i vecchi no, sa se fate, pigliano sotterreggiani, ma guarda un po' che gente veramente ignorante che si acciappa, e siamo noi mattessi che bruttiamo, non pensiamo che se la teniamo pulita è stato pulito a noi, capo. Dici le gente veramente, io dico sono Luigi, è stato messo il comune, abbiamo avuto la gente, chiedi. Luigi, io posso la tanta contraddizione, in modo che si ammette a pagare tu campa a chi si soffende. Passo via al terzo pettine dove c'è quel centro commerciale, tutto, te la menti, non ricordavi visto tutto vedo, o chissà piazza manna, posato, si pare tutto distrutto, tutto disegnato, tutto impasticciato, sopra erano i negozi, da macchine, si piazzato, serrano tutte squarciate a bici, perché la bici ha curato. Sotto non ne parliamo di la mondezza, di regale randaggio che vi so. Io ho abitato giù da boacchi, nigeriane, russe, tutti di ghigia razza, tutti. Non ci puoi neanche andare a chi ti ricogliano le mondane da in alto, a chi attaccano i frigano, va così buono, in mezzo ti pugliare. Oppure vai a parcheggiare la macchina e ha fatto la massiglia. Mi cambi d'ora gli ha la gatta in tria, allora si mia, se la gatta è buona. Chissi, era inteso questo particolare, sono pieno di chissi persone, che schifo, che ormai dappertutto queste cose succedono, e tutta gente che viene la cura, e la gente evidentemente che ha fatto di là, sai, se di là, non so cazzo, a che punto si arrivi, che lo schifo veramente che si usa, che ha aperto un tessaglietto, non si può da più a lui, a chi vi sono tanti, chi se vai tu a con i pizzini, Ivi, ma vedi questa cosa del genere, che io avevo una zantara, Ma io mi ricordo quando l'hanno aperto, che poi si è recuperato con la buona e mio cugnato, i pizzini minori, era bello, allora la sera quanta gente c'era, i primi anni che l'hanno fatto. La sera la gente ci scendeva, ti sedi fino al tavolino perché ci sono 3 o 4 bar in quella piazza, ti mangiavi un gelato, ti pigliavi una birra, ti passavi un'oretta, pure 2 orette, il vicino però puntava, leva al centro. Era bella anche la notte, c'era la pizzeria, ti mangiavi pure la pizza, al ristorante, una spaghettata di vasì, oppure venivi a giocare a minuta, a fazia, le buri. Cazzo vai avanti, io quando ero carina mia non mi avvia, mi ha dato la cappata a bissero caffè e io imparavo un sacco con le gambe, pieno di chissà niente, pieno di magnacce da salire, niente con io vado con chi si femmine, niente che conosce a buio, solo a me non me la fattia tutta, tutta proprio di quella gentaglia, e vai. dai, se mai mai a Bocoverdi chi ti chiede? Era troppo bello che... Oh, io vado via Barcheggio sempre i piedi, ero quattro vittime. Io mi occupavo, amiche mie, ma c'è sempre i piedi a stare la benda io. Ma, vent'anni fa però, Che... Era troppo bello che... E poi mi sono trafinito a Rosessa, io abbia fatto la cabina. A te, io ci abbia ben cura. No, c'era un po' di pulizia, c'era, dai, ma non ve ne più, va tutto brutto. Ma si vede l'olio di mare, che a te mette l'olio di mare. Ma si vede in televisione, a te lì. Ma c'è il chifo, dice chi racconta, ma chissà che riesce a raccontarlo, di suo. Mamma mia, già l'hanno fatto vedere, quando si drogati, chi si drombetti, chi fa, arrivi a fare, ma carizzare, che... Se tu fai, non hai dato un pezzo buio, ho pieno di preservativi e cilinghi, a nastro, roba da brillante rugolera, e poi il fiù, si ha mai in terra dei fiugi, e se ti fai da morire comunque ti tratta la zecca a capo, magari sai che la buchi sta lì, e vai! Figurati tu che io falegname via, cazzo tutto il chivo, sempre buona in medicina, pare secchi, tutto un cappannone, ci ha detto che fuori, tutti la strada, tutti in giro allo cappannone, fuori di un cancello, il rubacchio a occhio allo cancello. Ma no, tennati, chi sa spiaggia, chi sa una discarica? E fa appunto a chiamare, si mette un pezzo a niente, allo grigio per il schifo. E poi quando vanno a saietta, buono, in magna, nell'acqua, buono in terra, buono, capisci? Buono, visto, è brutta le troppo, guarda, ma è ritira, è a pensare che la piana i boschi, le contenitori, per la mondo, ma c'è la cosa, non finirà mai, no. I cacciatori sono sempre più di, se la mondo c'è in terra. Ma tu devi arrasare niente, arrasamento ai taglienti, ma che fai, casa? Ma fanno schifo veramente, no, venne, polizia non ha, casa. C'è un grido, va, puntando ai taglienti, chi, casa, con questi cose, pucci. Non pigliando quei pizzini, chi, avete tante queste cose, chi lampano in terra, è una vergogna veramente, casa, ma io non lo so, chi. Ora dico che con una patata di birra, una busta sotto vela, tutto consumato da leva, un libretto di macchina, carta di identità, tutta l'ubabilammo della macchina. Insomma, tutta cosa deve essere roba inalvolata da 30 cacca in macchina, se non è beccato le linea e fa le lampade tutto il rischio. Siringhi, ma di tutti i dagli, ti sto dicendo, non ci puoi mettere a piede perché ne pigli un malanno le figlie. È un fiago, tra il quarto e il quinto, e quella pianeta lì. Io lì già me lo ricordo pure, io l'avevo fatto dove stai dicendo tu il campeggio, all'entrata al quarto pittime. E sulla destra lì, anche io lì lo facevo il campeggio, ma è cant'anni qua, vai a vedere dopo in calcolazione, è un buon bersaglio, no? È impossibile qua, è ancora in usa, è detto che sì. E chi vede un cazzo pezzo infatti per la rubarra, per un ristorante, aveva fatto così, era un genovese, poi ci andava l'assusso, ci andava. E noi parliamo sempre i campeggi, i rami di casa ormai, li conosciamo bene, li conosciamo, e per cui noi ci andiamo sempre, dai, rubare, era un'armonia, vedi, chi mi canto fa la paraietta, mezzo burrito, tranquillo, eccetera. Allora mi chiede sempre che cose così, che non vi ho bifato io, a dinamizzare, da quando un anno facciato, mille anni facciato, la cabina, ivi, il successo. E mi pare che sto passando i la lettorale un 3 o 4 luci, però passenti solo. E un resto a destra non mi sono mai entrato a chi da quando infatti c'è del fasciato non mi sono andato, ma è più a mare io, non vado, quello per ci motivo, non mi piace, già che non mi farà bambino prima, che abbia la cabina, io non mi bagnavo, no, assolutamente, da lontano il mare lo vedia, però a mare non andavo. No, mi dia via e per cui non entrava, non va a arrabbiare, arrabbiare parte, ma là e basta. Mi bozzati, rufresco, ma il mare, ma a me non anda, e non vado ancora. E per cui non avevo più passato, però, che dico, si passa il bastone in macchina, mi posso in giro a vedere come c'era quel giorno. A vedere San Zanzara, a carizzare, e posso immaginare come c'è. Era poco vedo capivi che aveva funzionato di canguri, che tra chi era lì, lo terzo, lo quarto e lo settimo, mi pare, che era benzina, ma ha rodito di susso, mi pare, no? Tre o quattro finire di chi si costituisce, no? Oia! Ma non hai letto perché il mese scorso sul giornale, che tu tipo va a rubare, a secondo pittina mi sembra. Se la ripulita, imbiancata, pigliato quadri nuovi, taurini nuovi, macchine tra i capri nuovi, insomma, gli altri una portata che iniziava a stare. E non l'hanno voluto più che ne l'hanno volato quadri e taurini e ombrelloni. E la macchina tra i capri nuova luva, vedete bruciata. Allora un poco proprio tutta la barracca, era nato il giornale, 20.000 euro aveva preso di prestito perché era disoccupato per restaurare di nuovo questo locale che c'aveva la barracca, ma non importava che ne era svolato tutto. Brecco? E ho registrato il brecco. Mi pare che abbia chiesto una cosa del genere, e chi viveva ti ha dato un litro di pani, e chi viveva una baracca in legna, ma bella fatta, ma mi ha fatto una specie di ristorante, chi no? Tutto in mezzo alla sabbia, chi. E noi mi sono parati pure a mangiare a fare i cibucci, chi, capito? E ti fate certi spaghettati, chi, con roba di mare che non ci dico niente. E poi i cibucci siamo parati, chi, e ti dici che i cibucci verranno bruciati a casa, verranno. Ma la cosa è, quando uno vede che erano parati, e cerca di distruggirli invece e lasciarli incrementare, per carità, la gelosia si rimane, amica. Vabbè, c'è stato un break, avanti, mi pare che c'è la cosa di Natalino, avanti. Ehi, Gian Maria, a me da disegnare che c'è stato un senso. Ok. Guarda, per me. Guarda. E 9.20 qua, Natalino, 9.20, va benissimo, guarda, come segnale. Dobbiamo fare, rimani. Ehi, e sono matto e freddo ancora l'apparato, l'ho appena acceso. Acqua entra subito. Grazie. Però sta uscendo bene, l'atelier. Va benissimo. Manco, piazza da via strada. Tutto a posto, piccola. La sopra, la linea, la vedra, rimane. Per cui tutto a posto, sei tranquillo, va, l'atelier. Sta andando bene, come segnale. Però volevo sapere se avevo migliorato nei tuoi confronti, ma perché adesso è freddo l'apparecchio e sto facendo meno di quello che uscivo prima. Dopo lo metto come uscivo sempre e così almeno vediamo un po' se ha guadagnato qualcosa. In ricezione penso di sì, Vabbè, una roba lupa, gli ho grido. Quasi, quello preciso come lo faccio io. Sì, non si sente quale. Ehi, va benissimo. No, io sono con l'altro, io sono con l'altro. Aspetta che provo comunque lo dico me lo segnale. Aspetta che un attimino ghiacciando l'altro. Ehi. Hola. vabbè, ma comunque dovrebbe andare bene normalmente. Poi va Natalì. Sì, vabbè, per la digestione già va bene. Guarda un po', 1, 2, 3 prova. E qua sei 9,25, sì, qua sei 9,25, questo è più abbondanza, e questo dovrebbe essere preciso, dovrebbe essere lo Smith. Sì, è bellissimo, qua ti sento anche più bene, più perfetto, No, anche meglio di radio, no? Però lo credo, più pulita rimane, è una cannonata, Ho solo quell'otto parlante esterno, però, ma è la radio bella, pulita e meravigliosa. Sì, ho capito. Vediamo quando entra, come si chiama, Graziano, se ho migliorato nei suoi contenuti. Certo che da vicino non è che ci noti molto, bisognerebbe provare da lontano, va. Piano adesso vado avanti, vedo un po', chiedo i controlli a vedere un po' com'è la differenza. La differenza è che si dovrebbe notare senz'altro, ecco, perché se l'antenna nuova, cavo nuovo, dovrebbe andare molto bene. Ebbene, come stazionari che non ce ne sono? No, negativo Gianmarì. Vuol dire molto questo, Perché lui non c'è nemmeno accordatore, no? No, già ne ho due accordatori. C'è quello automatico e quello manuale. E allora tranquillo. Va benissimo, è abbastanza buona la radio, Abbastanza buona, veramente pulita, bella. Ti lascia la portante fissa. Guarda, adesso c'è la portante fissa, Va benissimo. Ma il computer acceso ce l'hai? No, negativo. Sto spento. Ma senti una setta di vento, la si sente appena. Prova a mettere di nuovo. Sì, forse quella dell'apparato, va. Sarà accesa quella. Perché c'è tutto spento qua. 9,20 Natali. E prima quando arrivavo, Graziato, lo ricordi? Prima i 9,5 con picchi positivi, prima è 4,5. E quindi c'è la differenza, va? Cioè sì, c'è nuova l'antenna, la calata del filo è nuovo lo stesso, tutto nuovo, è logico che c'è. Però devi considerare anche da me l'antenna mia, che non è tutta a posto, ecco, la Gianmarietta è nuova. Sì, vabbè, quello, però il segnale prima l'abbiamo preso con l'altra antenna che era più bassa ed era messa male. Questa l'antenna è nuova, il palo è più alto, insomma, è logico che c'è stata la differenza perché è più alto il palo e quindi risulta più libera l'antenna, grazie, ecco cosa ti volevo dire. Però anche da apparato a apparato c'è la differenza, perché per esempio l'altro giorno con Gian Maria stavo parlando, con questo sentivo invece con l'altro apparato, con lo zodiaco, quel sembrava come un rumore di vento, lo sentivo. Sì, ho capito. Sì, insomma, già c'è stata la differenza, dai, grazie. Se ti arrivavo così, è anche molta la differenza. Capito. Avanti, Gianmarì. Io, a quanto mi ricordo, era 9,17, 9,18 sempre, il segnale tuo era. Adesso ho provato da un all'altro apparecchio, quella arrivava a 9,20, qua arriva a 9,25. E questo dovrebbe essere più perfetto, perché se qui digitali e vanno più bene lo Smith, ho capito, per cui dovrebbe essere perfetto. Qua arriva 9,25, con una radio bella, pulita, che è una meraviglia. Sì, l'antenna è là, te l'ho detto, e poi c'è stato molto, molto miglioramento, perché dopo il 9 già lo sai che devi raddoppiare la potenza per poter aumentare di un punto S, figurati, sono arrivato così, vuol dire che il miglioramento c'è stato e molto pure. E io, ti saltassi, glielo credo, come pure. Sì, se non tanto subito, se non tanto subito. E per cui va benissimo, tutto tranquillo, a posto, bene così, fa piacere. Ripigliatela, grazie. Ehi, da me, se ti leggo Luca da me, ti fa 50 anni che sta antenna. Se gli hai messo anche tu più tiranti, ui, già la tocca in più già, alloggio Mario. E Gianmaria non riprende. Sì, io per forza gli ho messo il tirante, 12 metri il palo, già lo credo. Ma dove gli hai messi? No, ce ne vogliono 4 solo, ce ne vogliono. Bisogna sapere dove metterli però. Quello già è vero, ma dubbi che erano meglio, per 12 metri di tubo, gli hanno rifatti animali, no? Oh, altre 4, sbazzati, già era meglio. Non so, quello che c'è lì alla Madonnina, la vecchia sant'anni che va, sempre se ce l'ha ancora, ma insomma già ne ha. C'è anche Giranti va, che c'ha anche quelle antenne di radioamatore, l'hai visto? Eia, lo conosco pure chi è. Capito. Però il mio non è che c'è tutte 12 metri dal tetto, capito? Ne escono solo 6 metri e 6 metri ne escono dal tetto, capito? Non è che ne escono 12 metri, no? Gli altri 6 metri sono attaccati al fianco della casa, capito? Ah, sempre alta, vabbè, già, no, io quando me la cambio me la metto sempre in quella direzione, però dall'altra parte, e ritirate per i buon gruppi, non me la fucchi, a chi la voglio colloca proprio chiusa, poi nei radiali gli metto la lenza legata in punta al palo, così si appoggiano le borracce e non me le tronca. E lui se è vero, io mi sono bravaglio, l'avevo fatto la mantova turbo e tira via in alluminio, e lui si coglie le volevo fare, andava bene. Ma la mantova turbo è l'occhio. Mi pare una a uno perché si marcisce il petto di sotto, che è di ferro, non è come la mantova 5. La 5 è migliore, più semplice, come antenna, più tutto là. E poi c'ha più ricezione pure. La mantova turbo. La turbo mi ha dato sempre dei problemi. Ma la mia non è che ce n'è solo uno troncato, gli altri si sono sfilati, perché come si appoggiano, si appoggiavano le burracce, poi quando si dava lo slancio, no, per prendere il volo, oppure quando si appoggiavano altri, oscillavano, oscilla adesso, oscilla dopo, ne è uscita dalla capsula dove sono incassati. Infatti c'è il pezzo di nel radiale, c'è il pezzo della molletta del rame, però il cappuccetto sono attaccati all'antenna, capito? Praticamente me li ha scollati, ho labrato la burchia dove la vittino alla corona dell'antenna del radiale. Solo uno ce n'è spezzato, cioè però sempre in quel limite lì, ma non spezzato, ce ne manca un pezzettino, e ce ne sono le mollette fuori, capito? E come si bugiava il curraccio, oscillava, poi mi sopra la ventella, perché li ho recuperati, erano sul petto. Beh, infatti. Scusate se mi avete chiamato, me l'ho sentato un attimo con questa gente, per cui ne approfitto, dai. E ce ne sentiamo magari eventualmente stasera. Grazie della chiacchieratina, buon proseguimento, auguroni ancora e buon pranzo a tutte e due. Chiudo, dai. Riprende la tenere, mi ascolto per il finalino e chiudo, dai. Ciao Giammaria, buon correttivo, buona Pasqua, buon tutto, saluti in famiglia, avanti, grazie. Ehi, ciao Gio Maria, buona carica, buona Pasqua a te, a QRA, ce ne sentiamo alle prossime. Se accendi stasera già lo accendo. Vabbè, ciao, riprendi. Che ciao a tutti. Allora, grazie. Ma mi volto qualche cosa da mettere sotto i denti e poi ci facciamo un pisolino. Questa sera devo anche uscire, va a Fanguarla, quindi ne approfitto là per salutare anche a te, saluti in famiglia, auguroni, e faccio QRT anch'io, va, ci sentiamo alle prossime, grazie. Ehi, ciao la famiglia, buon tutto, buona carica, salutone al QRA, ciao, buona Pasqua, è tutto. Ah, stasera se accendi, se no già ci sentiamo alle prossime, ciao la pancia. Ciao, ciao, grazie. Attenzione, canale 5, gabba. Che? Avanti, canale 5. Rocky to Bronzo, Non ti occupare di pelle anghizza. Non ti ricolorano, di chi sta? Non ti ricolo. E allora, la giubilata in campagna stamane, la giubilata mi sa dozzina e ti porta lo spiedo. Lo spiedo? Io mi facevo fatto un po' di mistica che va a dondolo. Già, so buono che si addondolo, basta che si dondolo non era peggio. Auguri comunque, io sono andato a farvi gli auguri, non mi ha ripreso nessuno. E ricandato al centro, buona Pasqua anche a te, a QRA. Ma lì c'era Gian Maria, però questa gente ha chiuso, Natalino. Si deve a preparare magna, è tutto, e dopo si fa un pisolino e poi stasera esce, e allora ha chiuso. Ah? Gaba. Ci vuole il codice fiscale, non lo so se grazie l'ha aperto oggi. L'altro giorno me l'ho preso avanti le sigarette e se la mattina mi ha detto lì anche le tre pacchetti che c'è Pasqua e poi non ce la faccio uscire. E io la gente spero con fila a me che qualche tipo di testa ce la faccio, ma la prendo domani e invece mi sono dimenticato, visto hai, chi è più evidente. È provata la stazione, sabato, perché la sera mi sa che oggi è Sarrado e poi non c'è manco macchinetta da Grazella. La macchinetta la trovi quel tabacchino che c'è qui a Sant'Orsola, salendo da Grazella. Io lo so, ma la macchinetta io non la uso mai, no? O non mi pila la carta o c'è per qualche problema, c'è, guarda, con le macchinette sono vistose. Sant'Orsola è nuova, perché io ogni tanto già ci vado, anche di domenica me le prendo. Anzi, un paio di domani più basso che non recuperarle, a mai giù sotto mi do un pacchetto di Diana. E non me la recuperate, ma ci bigliate sul pacchetto. Deve essere qualche di loro, le ha prese, no, non le ha viste, perché io le ho intraviste, erano incazzate. Ma ci bigliate dice non le ho comprate. E io invece a Porto Torre c'è la macchinetta e ho preso le Marlboro e me li so fare di due bacchetti. Perché molte volte anche quando ne pigli due, magari gli dai il prezzo oppure non li vedi, o senza una fase, e mollano di tutto si innamora. Gliene frega di gente già, a me mi aveva fregato pure a me lì dove c'è il cinema Harrison, in quella salettina c'è il tabacchino, quella macchina lì mi aveva buttito Ma che cosa faccio di parlare bene? Adesso ci va via due carabinieri. Cazzo, ci mamma mi piccia. Cazzo, la giusto, cazzo, ma se soldi non mi scendono le sigarette. Dice, ce l'abbiamo visto, ma non è modo. Cazzo, ma ci ho preso. Beh, uno si incassa pure, ma non cazzo, ma chi non fa le sigarette? Allora, ma visto, cazzo, abbiamo dovuto le macchinette, chiesa da Pascoli non funzionava. Quella che c'era qui a Sant'Orsola è aviuta. Chissà, vedi a casa e l'occhio era aviuta. Ha detto, cazzo, tu la vaga. Ma cazzo, tu vuoi ritirarmi tutti i buoni, eh no? Ce l'hai avviso, se ti interessa, grazie. Oh, no, ma no, io ce l'ho, mi è venuta mia figlia, me ne ha portato un pacchetto anche lì. Tu qua già ce li ho. Vuol dire approssimare a una. Un attimo, che me la prendo. Sì, già sono qua. Oh, grazie. Sì. Basta, là. Ah. Basta. Prese, avvenne gente. Pieno, come il giorno alimentare, tutto pieno, Strani viene l'aperitivo prima di pranzare. E prima già ci andavo anche io, mi fermavo anche spesso. Quando stavo lavorando, lei c'era venuta a che mi fermavo. Che volevo chiedere, ma qualche negozio aperto, cioè mi sta dicendo mia moglie. Giovanni, Giovanni, a posto è capo. Però non lo riapriamo a Porto Torres, il canale e poi i granai. Ah, ho capito. E oggi no, è Pasqua, mi pare a strano. A Pasquetta già lo so che aprono. Oh, e anche i supermercati lì, in zona di mare, quella zona lì aprono. Che mi sembra che apre anche ci sta marcato. Alla gara. Io guarda, sono contrario a queste cose perché tutti hanno diritto di farsi la vacanza in famiglia, sono molto contrario, mi dispiace per chi lavora, io mi sono sempre, diciamo, non mi hanno mai fatto lavorare né domenica né giorni festivi, qualche volta a Natale magari che c'è bisogno, ma se no è difficile. Non sono tutti, no, che lavorano. Dopo lavoravo io, per dire, il negozio rimaneva aperto, invece dove ero io, nella falegnameria mi va via tutti i vecchi, buono giovedì grasso, martedì grasso, quelle feste così, poi San Nicola, tutte quelle feste così, giù noi chiudevamo, invece il negozio rimaneva aperto. Stava Gusti, e dove sei arrivato? Vicino al Tire, su, al semaforo. Stava di Budi. Perché non si sente? Mi guarda che al prossimo semaforo, se devi girare la parte della bretella, ieri ce l'ha posto il blocco dei carabinieri e della volante, mi ha impiccato un po' di macchine con un garrato rizzi. Ah, vero? Bella Pasqua, no? No, ma me non hanno niente da farmi perché sono in regola sia con una macchina che con l'altra e anche con la moto, quindi problemi non ne ho. E sto preso quel fa di mia moglie oggi perché una caro la vacca, se no se la mette in mezzo al fango, al coso me ne è un po' sul nero come, tutto gatto, mezzo a tirarla. Mi dispiace che ogni volta che la lavo, guarda, è così, ogni volta che la lavo si vuole affaeva. Ma non per quello, no. Io ieri sono passato, cazzo, ma sarà di un colpo, ma non perché non sono in regola, sono in regola, ma non c'avevo le cinghie. E lo stavi filmando? Ah? Non ti hanno fermato, grazie. No, ma la domanda è il quadrato mi è giunto, un colpo mi è giunto, mi sembra che sono 70 euro se non c'è la cinghia e anche i punti della patente. Sì, non è tanto l'espertello qua di punti per chi guida specialmente è seccante, dai. Per me che guido al lavoro, che mi tolgano i punti è sono in zona per dire se devo andare da Noga, Rulatti Rossi e ricendere qui, non me ne metto in cinque, se va a Città Marcato, a Pradane da sì, però se devo fare 200 metri, se 200 metri non me ne pongo, no, per dire. Cosa sto capo di magica, arrivo un secondo, me ne parlo, posso uscire qua e me ne do rapparà. Ma non è così che funziona, devi metterla sempre la cintura, sempre, perché basta anche il dormitino, se ti circondi una macchina è fatto io. Già lo so, però, ma vada da ora in poi a me la pongo la stessa, non me la posso sentire. Anche proprio ho fatto la girata e me la debussicate proprio a oggi. Ed erano i liberi, quelli della stradale. Ed erano a presecca la Benigni. Certo, dice, ma ne sono squadrato, me l'ho scampata. Ma resta una cosa, che io me la metto, come mi muovo me la metto la cintura, perché al mio collega l'hanno trovato parlando col cellulare, rispondendo alla ditta, non per le cose estive, rispondendo alla ditta, e senza cinture ne ha ricavato le tribunze da battenti, dici? Io quando scuso al telefono, se sono solo, pongo freccia e mi accorso. Quando mi accorso rispondo, se è ancora squillendo, se no torna a punire prima e non rispondo a nessuno. Guardo che, dico già mi torna la chiamata, quando mi chiamano mi due mi fermo. Se no se c'è la mia 50 lo passo lì, lo prendo lì. No, non ci parlo io al telefono. Io da giusto, va bene, gli va a rotato io. Di Città Mercato, sta vedendo scudendosi, ho la sua macchina o scendendo in nata al cancello di sopicina, no, e fa vita, va vita. No, un bel pericoloso, no. Già mi ha fastidio quando mi fumo anche la sigaretta, molte volte, perché per non metterla in portazione dentro la macchina, si la bruci la vicina dal finestrino. E me ne volte ti si torna entrando e ti scusa a faccia, già l'ho più uscito, per ora devo il telefono. Sigaretta va sul pericolo in macchina, lo stai. Basta che ti devi fare la vicina a casa, in alto, ti rimaiesi ma a chi ti brucia e può succedere qualsiasi cosa, no, anche la sigaretta la vogliono proibire in macchina, lo sai. Già lo so, già lo so, a me mi ha bruciato. Il volante ci ha bruciato e più mi ha parato, l'ho visto, mi sono mozzicone, si è arrivato e mi sa le gocce, mi ha bucato, bruce io. Cazzo, meno male mi sono fermato, ma è un attimo, lo sai il buco che gli ha fatto le sedie. Lo so, perché sono sintetici, sterili, e come cade la roba calda, subito si buca. La saluta me l'hai parata al fianco, per sedire c'è la mochetta dentro, cazzo, la presa con mamma, ma sai come si stava allargando subito, l'ha già trovato così con le mani, veloce, mi sono pure bruciato, e sono portato mezz'ora controllando prima di pulire, pulsarmi e pulire, a fascino sia che si cinghiava sotto, che pensate di essere agito. L'occhio già ho soggia. Grazie, ben bene mi ascolti, perché questa antenna ho perso la rondella e si rifà la rasura. Infatti non fa andare fuori con questa antenna, adesso la macchina mia moglie, se ne sono con la mia macchina. Devo buscare una rondella in acciaio, oppure un bullone di quelli autobloccanti in acciaio, che così almeno blocca me. Non si muove più. Ma la rondella già, non mi venga che rondella in casa, già la trubi. Perché molte volte anche io le perdo quelle rondelle dell'antenna quando me la levo, perché oramai si è fatto la sagoma dell'incrasta, però non ci rimane dentro. E ne ci imparo uno e mi dico che me ne va a entrare la bella. Però come rondelle già, ho acciaio ferro per la bomba stessa, che le procuri. Ma così me ne ho buscate una bella, proprio in acciaio, nuova, solo grande. anche io ne ho di fare il tipo, ma di questa dimensione non ne ho. C'è anche quei rondelloni che si mettono sotto la cappotta quando metti le antenne in acciaio, quei rondelloni rossi grossi. Quelli ce li ho anche io, conservati, già ce li ho. Di quale roba le acciaio già, mi sembra che li ho in garage, in casa e scatolina ve li devo avere io. Perché le avevo comprate anche queste ritirate dell'antenna, tutte in acciaio le avevo comprato, proprio vanno arrugginissime. Per fare gusti ma la rondelli la bloccava l'antenna, ti immaginesci? E lo so già. Prima di questa c'avevo l'altra antenna che era migliore, perché la picciatura, capito? Quella lì la picciava non era né rondella né nulla, invece lì si farfalla e la perdo per quello. Ma quest'altro ti dico, io la volevo anche io, così ho fatto male che non ho preso quella con l'attacco, solo che avevo l'attacco già farfalla. Solo messo lo stile e va bene, capito, non deve stazionare né niente, se no mi toccava cambiare di nuovo tutta la cosa, capito? Io gli ho messo questa farfalla perché il pezzo l'ho trovato, non mi trovo lo stile, sarà in garage che vado un macello e piano piano lo sto mettendo a posto, ma appena trovo lo stile. Mi piace quella lì, perché ero messo il villaggio, tutto il rocco, con il filo e tutto, anzi c'era anche, lì c'è anche, figurati il filo che avevo messo la spezzone di RG8, che è grosso, però funzionava più di ghisca con quel filo lì. Solo che non mi trovo lo filo, chissà, è un casino che su garage, un filaggio cucito, già la trovo, ma come la trovo me la cambio. Perché quella là, la città la passavo così per entrare in garage. Chi sa di buca farfalla, fastidiosa. Grazie, mi aspetto un attimo che sto andando a trovare mia sorella. 5 minuti poi riprendo, se stai all'ascolto già ti richiamo io. Tanto per andare a trovarla, a fare gli auguri, perché anche lei ne ha diritto, poverina. Già sono qua, tanto è acceso, mi sto guardando il giornale. Hai chiamata quando vieni. Ma sai che c'è la sorella in coma, sono andato a trovarla adesso. Già l'ho sentito l'altro giorno, non mi ricordo che lo stavi dicendo, e cosa ci puoi fare? E così, ma chissà che si risolva. E no, arrivo ma non si risolve più, un milione di qualcosa, ma non di tanto. Oramai il cervello è compromesso. Vabbè, grazie, 5 minuti e sto arrivando, Già sono qua.